Benvenuti a Music Escapes 5, io sono Prisma e questa è Radio Pazza. Veleno scorre nelle sue vene, lui non ricorda bene quale burocrate ha decretato la sua fine. Ah, che godimento! Questa che avete appena ascoltato è una band italiana e si chiamano i Rocky Horror Fucking Shit. Il pezzo si intitola Vuoto Morte e la net label che ci offre questo indie rock nostrano è la Subterra Label. Io ora a questo punto salutare e ringraziare per la disponibilità Carlo Sanetti, che è un po' il deus ex machina di questa net label, che ha dato assoluta disponibilità per passare i pezzi all'interno di Music Escapes, che ricordo è dedicato interamente alla musica Creative Commons. Io vi invito, se volete, a collegarvi sul nostro blog radiopazza.blogspot.com, dove troverete la playlist di questo podcast, come di altri, anche di altri DJs, in cui troverete i vari link per scaricare, e ascoltare, acquistare i pezzi trasmessi. Ovviamente in questo caso appunto io vi consiglio, se avete gradito la musica che passiamo, se vi va, insomma, magari rinunciate a qualche pacchetto di sigarette e magari comprate un album autoprodotto. Comunque, insomma, sosteniamo la musica, la buona musica, che non ha spazi nelle radio commerciali o comunque anche con i meccanismi, insomma, che ben conosciamo, tra SIAE e case discografiche, insomma. Per cui, quando ho scoperto per puro caso questa etichetta indipendente, appena ho sentito il primo pezzo subito ho voluto approfondire e sentirete, insomma, adesso vi programmerò vari brani da questa net label, che c'è movimento dalle parti di Viterbo anche a livello poi di organizzazione eventi, ma adesso smetto di chiacchierare perché la musica deve essere sempre protagonista. E ci andiamo a sentire un pezzo che per me è un po' una specie di bandiera. Sapete, quando la vita non è proprio una vostra migliore amica, spesso vi trovate a dover rispondere alla domanda canonica, che non sempre viene fatta col cuore, ma magari soltanto per fare il pourparler, quello quotidiano. E quindi, quando vi si chiede come stai, rispondete: Non ho niente. Loro sono i Tedesco and the Mono Magical Band. Istintivamente raccolgo il mio latte versato, soffocando il mio orgoglio. Insensibilmente mi dirigo verso l'inizio del mio forte egoismo. Vorrei dire, fare, pensare ed essere arrabbiato, ma mi autoconvinco che non ho niente. Senza farmi notare, volontariamente mi scelo la mia rabbia nel sonno, senza porre giudizio. Potrei dire, fare, pensare ed essere arrabbiato, ma mi autoconfisco che non ho niente. Sono sfogata finalmente. Che poi il titolo del brano è emblematico, non ho niente, quello che rispondiamo un po' anche a noi stessi per dimenticare quello che ci fa star male. Quando siamo talmente saturi di noi stessi e degli accadimenti negativi che ci gravitano attorno, al punto da volerli dimenticare, ma non per fare lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ma perché fa troppo male persino solo parlarne. E allora la musica in qualche modo interviene per esorcizzare, per aiutare e favorire quella catarsi che è fondamentale, perché la sofferenza, insomma, si trasformi in energia creativa e positiva, anziché schiacciarci e annichilirci. E allora io ringrazio nuovamente Carlo Sanetti e i suoi Tedesco Punk Autore The Mono Magical Band, e vi invito a fare un giro sul loro sito subterralabel.com, di cui troverete anche indicazioni e link apposito su radiopazza.blogspot.com, perché non troverete solamente questo lavoro ma anche tanta altra buona musica e soprattutto uno spirito che mi piace molto, cioè quello del copyleft, ma con l'obiettivo di diffondere buona musica e passione per la creatività. Vi propongo adesso invece un brano tratto da La guerra delle formiche, che è un lavoro del gruppo omonimo, appunto La guerra delle formiche, e ho scelto per voi un brano che si chiama Crisalide. Respiro aria. si divorano. Avete appena ascoltato La guerra delle formiche con il loro brano Crisalide, sempre per Subterra Label e Carlo Sanetti. E l'immagine del titolo e del nome del gruppo danno perfettamente l'idea di come ci si sente spesso. Molti di noi conoscono benissimo la sensazione di sentirsi piccoli, insignificanti, proprio come le formiche, nel combattere una guerra quotidiana per la sopravvivenza che non è soltanto data da fattori esterni, legati alla società e al paese nel quale viviamo, ma quando poi oltre a tutto questo si aggiungono quei sommovimenti interiori, quelle strane combinazioni di eventi familiari e non che comunque producono sulla nostra anima quello che può essere definito proprio un inverno dell'anima, dal quale è difficile rinascere senza, diciamo, quell'impulso, quell'istinto di rinascita alla vita, che è appunto sintetizzato benissimo secondo me nell'immagine di una crisalide che, stanca di respirare aria avvelenata, decide finalmente di rinascere a nuova vita. E a questo punto, poiché appunto per rinascere a nuova vita, qualcosa di noi, la vecchia parte di noi deve morire, Vorrei passare adesso un brano del caro Eric José, che avete imparato a conoscere nei miei precedenti podcast, sempre per Music Escapes. Questo si intitola They Killed the Kid. E mi piace questo modo di parlare della morte del bambino interiore che alcuni eventi causano, forse per alcuni di noi un po' troppo presto. E allora esploriamo gli abissi e le profondità attraverso queste dolci note. Mi ha conquistato al primo ascolto la musica di Eric José e questo brano mi ha colpito in modo particolare. Vi ho percepito vibrazioni simili, quei sono movimenti dell'anima che mi sono arrivati attraverso il suo modo di fare musica, che poi non so se effettivamente quello che mi è arrivato è quello che voleva comunicare Eric José, ma non importa, il bello poi dell'arte è anche questo, il poter arricchire di nuovi spunti e stimoli ed emozioni che vanno persino oltre quello che l'artista voleva esprimere quando ha dato vita alla sua composizione, che sia uno scritto, un dipinto, una musica, qualsiasi forma di espressione umana. E adesso andiamo sempre per profondità e sonorità eteree, sospese tra parole evocative e suoni elettronici che sanno di fughe verso mondi lontani, lontani da un demone che ci insegue, che è così affascinante nel suo pallido candore, indifeso, ma neanche troppo. Loro sono gli Zero Gravity Toilet. Il brano che ho scelto si intitola Risalita Nord ed è tratto da Antidotes for Imaginary Friends, antidoti per amici immaginari. E dopo vi dirò qualche parolina su questo progetto che è molto molto interessante. Dio capiti anche qui. Un'altra volta. È netto. Il tuo pallido splendore. Thank you. progetto veramente interessante questo degli Zero Gravity Toilet, sempre per distribuiti dall'etichetta Subterra Label. Diciamo che nasce poi come un percorso di ricerca e sperimentazione nato all'interno del coordinamento di band indipendenti Poliester e del Centro Culturale De Frag di Roma, sto leggendo dal sito internet. E il disco rientra nel Youth in Action Program della comunità europea che ha sostenuto e seguito il progetto. Più di 15 musicisti provenienti da diverse regioni d'Italia, attivi in diverse formazioni dell'underground romano, si incontrano e danno vita a un disco dallo spirito collettivo, fortemente votato all'improvvisazione. E beh, questo si percepisce assolutamente, veramente escono fuori dei brani, uno diverso dall'altro, veramente molto interessanti, secondo il mio parere. Vorrei a questo punto leggere un testo di una grande anima che ho l'onore di avere come amica e che secondo me si intona benissimo con il brano che lascerò in sottofondo. Si intitola Alba d'un giorno di primavera. Tintinnano le cronogocce sul piatto del mio cuore infranto. Pezzi ceramici d'una vita persa, senza resa, senza perché. È come un treno lanciato contro ostacoli insormontabili, l'oggetto della mia essenza. Come sbuffi di fumose incertezze lentamente diradano in un cielo terso. Sono i sogni che fluiscono leggeri e si stemperano nel crepuscolo dei desideri. Questa poesia l'ha scritta Jackie. Se volete sapere chi è Jackie, è l'autrice e curatrice del blog trans.splinder.com e veramente dal primo momento in cui ho letto quello che lei è in grado di scrivere per esorcizzare anche lei un dolore che è diverso dal mio, ma che ci ha permesso comunque di esplorare le profondità nostre e altrui. E questo suo componimento recente io l'ho definito un quadro reso in parole ed è un piccolo omaggio che vorrei fare a Jackie, questa mia amica, per ringraziarla di tutto ciò che mi ha trasmesso e di come mi ha insegnato senza pretendere di insegnare, quindi come un maestro inconsapevole, ad andare davvero oltre il pregiudizio, perché è molto facile a parole, e lo dico a me in prima battuta, essere aperti, open-minded, senza pregiudizio alcuno verso il diverso, verso tutto ciò che è diverso, e non è inteso solamente come una questione di genere. Essere diversi è una condizione di sentirsi alieni per qualsiasi motivo, quindi può essere una condizione di genere, può essere una malattia mentale, può essere pensata differentemente da altri, qualsiasi cosa ci fa sentire incompresi nel mondo in cui viviamo. E allora tendere una mano e raccontare qualcosa di tanto intimo, come ha fatto Jackie nel suo blog, è stato per me, diciamo, innanzitutto un modo per avvicinarmi a un mondo che è completamente lontano da me, quello dei transgender, delle transgender. La dignità che traspare da quello che lei scrive mi ha sempre toccato in profondità e mi ha anche insegnato molto, mi ha dato l'esempio per fare altrettanto. Quindi mettersi a nudo non per compatirsi, ma per dare, diciamo, al mondo un piccolo seme di consapevolezza di quella che è una realtà che, se non si conosce, però empaticamente si può arrivare a capire. Se solo si spegne il cervello, si eliminano tutti quei costrutti che ci portiamo dentro e che ci impediscono di arrivare al cuore delle cose. E in questo senso, a volte, il dolore, di cui farei volentieri a meno, mi ha dato, diciamo, almeno questo, diciamo, di positivo, cioè la capacità di arrivare all'anima delle persone bypassando quelli che sono poi gli involucri. E quindi con gran piacere che dedico il prossimo brano alla mia amica Jackie. Loro sono i Westfalia, dalla compilation Il paese è iperreale, Il brano si chiama Me and Me. Bellissimo anche questo pezzo dei Westfalia, Me and Me, che poi riprende una tematica a me molto cara, che è quella del dualismo, dell'avere più di un'identità, e in questo caso il discorso che si è appena fatto non poteva che avere una coronazione musicale migliore. Faccio quindi complimenti ai Westfalia. E dicevamo prima che questo brano è tratto dalla compilation di musica Creative Commons a cura dell'etichetta indipendente Subterra e Radio Riserva Indiana, intitolata Il paese è iperreale, che un po' riprende, diciamo, le riflessioni del filosofo francese Baudrillard sulla postmodernità. In qualche modo mi ha subito incuriosito perché, diciamo, da qualche mese, insomma, era anche uscito Il paese è reale, e quindi mi è piaciuto il nome che si è voluto dare a questo progetto, Il paese iperreale, e subito ho avuto voglia di scoprirlo, e devo dire che le 22 canzoni che sono inserite sono una più bella dell'altra, per cui andate, scaricate, diffondete e poi magari sostenete anche gli artisti acquistandone la musica, perché ricordo sono tutti artisti indipendenti, e quindi voglio dire, se ci piace quello che ci offrono, è giusto, insomma, valorizzarlo anche. Andrei avanti adesso a questo punto con un'altra artista che vi ho presentato nei miei podcast precedenti. Lei è Lucrezia, e il brano che ho scelto questa volta è Let's Pretend. Say, let's pretend, I'll pretend that Splendida questa Let's Pretend di Lucrezia. Siete sempre su Music Escapes numero 5, sono Prisma e troverete questa puntata ed altre su radiopazza.blogspot.com. Vi ricordo anche che potete ancora votare il mio podcast e quello di Bach su European Podcast Award fino a luglio. Troverete i riferimenti sul blog stesso su come votare, basta solo un clic, non è richiesto niente di particolare. Se vi va, insomma, se avete apprezzato, saremo lieti, insomma, di essere sostenuti da voi che ci ascoltate, e volendo, insomma, potete sempre anche lasciarci un commento sempre su radiopazza.blogspot.com. Vi propongo adesso un gruppo, più che un gruppo, direi un progetto, intitolato Mad Style. Mi ha colpito moltissimo, in particolare questo brano, perché in qualche modo sintetizza quello che ho raccontato poco prima, insomma, quindi la sofferenza, diciamo, la morte simbolica e poi la rinascita in una specie di fiorescenza, e quindi in qualche modo una trasformazione. E il brano che appunto andiamo ad ascoltare si intitola Floranta. Dolcissima questa Floranta di Mad Style al secolo, Matthias Weigold, un tedesco originario di Freiberg che sta attualmente studiando ad Hannover, e ha pubblicato questo EP Mystic Beauty, di cui appunto Floranta è un brano estratto. L'etichetta è la Phonocake Records, di cui abbiamo già avuto modo di esplorare il catalogo la volta scorsa. Dalla stessa Netlabel ci andiamo adesso ad ascoltare un altro artista, questa volta spagnolo, è Jordi Saludes da Barcellona, che con lo pseudonimo di D-Fried ha iniziato, insomma, a produrre musica nel 2003 quando si è trasferito a Londra. Ho scelto una traccia dal suo lavoro Clouds Leave No Trace, Le nuvole non lasciano traccia, perché, non so, intanto mi ha colpito il titolo, questa immagine, insomma, delle nuvole che in qualche modo hanno affascinato ognuno di noi almeno una volta nella vita. E poi da una frase che appare nella presentazione del suo lavoro sul sito della Phonocake Records ed è: le nuvole non lasciano traccia nel cielo, così fragili, proprio come il mio essere. E poi c'è un passaggio che descrive il suo lavoro. È tempo di trovare il passaggio sacro nell'oscurità, una parte segreta nel sistema di caverne, nel un mondo segreto, nascosto. Dimenticare tutta la crisi per un periodo, pensare alla guarigione, all'amore, alla rigenerazione e alla ricreazione. La primavera inizia nel tuo corpo, il caos senza tempo, che in qualche modo ha una visione del futuro, delle idee. A questo punto direi che vi faccio ascoltare questa Inner Tourist, turista interiore. Thank you. Siamo arrivati al termine di questa Music Escapes numero 5, quindi Prisma si appresta a salutarvi. Vi lascio con il brano di Psyrock e Little Sister Jen, chiamato Akinosuke, per la Psylince Records. Cercando su internet il significato della parola Akinosuke, ho scoperto una buffa similitudine, curiosa similitudine con Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Akinosuke è la storia di un mezzadro che viveva nel Giappone feudale, diciamo una specie di leggenda popolare giapponese, un racconto giapponese. E Akinosuke era solito fare un pisolino sotto un grande albero nel suo giardino. Un giorno, mentre era seduto sotto questo albero, mangiava e chiacchierava con gli amici, a un certo punto si addormentò e svegliandosi si trovò sempre sotto l'albero, ma gli amici non c'erano più. Vide venire verso di sé una grande processione reale e che lo informava che il re di Tokoyo, un mondo di sogno, richiedeva la sua presenza alla sua corte. A questo punto vado velocemente al succo della storia. Akinosuke va a finire, diciamo, in questo mondo sotterraneo e quando si risveglia, gli amici gli raccontano che in realtà lui non si è mai mosso da sotto l'albero. E allora Akinosuke racconta il suo sogno e uno dei suoi amici gli racconta che durante quei pochi momenti in cui lui si era addormentato, una farfalla gialla era come se fosse uscita fuori dalla bocca di Akinosuke. La farfalla venne catturata da una formica e portata sotto l'albero. Poco prima che si risvegliasse Akinosuke, la farfalla riapparse da sotto l'albero. E gli amici si sono chiesti se per caso la farfalla non poteva essere l'anima di Akinosuke. E cominciarono a cercare sotto l'albero. Trovarono il grande regno delle formiche che Akinosuke scoprì di aver visitato in sogno. Beh, io direi che ci sono molte molte somiglianze con Alice che viene a trovarsi, diciamo, catapultata nel mondo della regina e di tutti i buffi personaggi che incontra in questo mondo alla rovescia. Vi lascio con questo ultimo brano, appunto Akinosuke, e vi racconto un piccolo aneddoto riguardante la formazione, appunto, di questo album. Psyrock si chiama Cy White di Wellington ed è un produttore musicista. Little Sister Jen è la cantante, ma molto di più. La curiosità è che i due collaboratori non si sono mai né incontrati né parlati, ma la magia delle interconnessioni del web ha fatto in modo che Psyrock sia riuscito a trovare dopo un po' di tempo una vocalist che facesse giustizia alle sue composizioni. E pensate che lei viene dalla Svezia ed ha una sua band, Sneezing Habit, eppure è riuscita, diciamo, con la sua partecipazione a personalizzare le creazioni di Cy White alias Psyrock, darne comunque un risultato molto, molto intenso e molto originale che amalgama folk elettronica, dub e atmosfere gotiche. Se vi va, insomma, di scaricare l'EP messo a disposizione in licenza Creative Commons, trovate come sempre i riferimenti su radiopazza.blogspot.com. Prisma vi saluta e vi ringrazio ancora una volta per il paziente ascolto. Alla prossima!